Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, ringraziamo tutti quanti per la partecipazione attiva di un'intera annata con questa trasmissione La Caccia va in vacanza. Ringraziamo anche Gnop che si è prestato ad una regia di pronto soccorso. L'appuntamento per una volta non è confermato per domenica prossima, ma volendo, si può ben sperare che possa essere rinnovato più avanti nel tempo. Buone giornate a tutti. Sì, ringraziamo Gnop, il quale oltre a farci da regista oggi è colui che provvede a far sì che potiate disporre dei nostri testi in linea, potete disporre dei nostri testi cliccando sul sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it, le trasmissioni, La Caccia, ci trovate tutti i testi dell'ultima annata e delle precedenti. Ci sentiamo presto.